in primo piano. Buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore perché, come vi avevo annunciato ieri, oggi è la giornata in cui inizia la guida pratica alla manovra, la legge di stabilità e diciamo il budget per il nostro Stato per tutto il 2016. Si inizia con la parte che riguarda gli immobili, e domani sarà la volta delle pensioni, mercoledì le novità per le imprese, prima parte, e giovedì la seconda parte appunto delle novità per le imprese. Trovate tutto questo le pagine 26 e 27 del Sole, che ha un'apertura invece dedicata a tutti gli altri appuntamenti del 2016 che riguardano tasse, pensioni e incentivi, tutta l'agenda delle novità. E anche in questo caso moltissimi gli approfondimenti fatti per schede molto chiare li trovate dalla pagina 2 alla pagina 6 del Sole 24 Ore. E poi ancora un'altra iniziativa lanciata dal Sole 24 Ore quando è scoppiato lo scandalo delle banche, il manuale per il salva risparmio, un manuale in realtà di vera e propria educazione finanziaria. In questo caso dalle pagine 11 alle pagine 14 trovate quelle che vengono definite le regole d'oro per evitare insidie investendo in particolare in azioni. Quindi questa è Sole 24 Ore del lunedì, che sapete proprio un'edizione di approfondimento del nostro giornale e che ha tutte queste novità oggi. La prima pagina della Repubblica ha una fotonotizia dedicata alla vicenda di cui si è parlato molto nei giorni scorsi, della squadra femminile di calcio femminile dell'Locri, di calcio femminile A5 dell'Locri. I suoi dirigenti sono sotto scorta, non è ancora chiarissimo da dove vengano queste minacce, che però sono giudicate reali e appunto da cui è scattata anche la scorta. Ieri ci sono state una serie di reazioni, tra le quali quella di Giovanni Malagò, presidente del CONI, che ha detto assolutamente dovete tornare a giocare, e anche del presidente della Federcalcio Tavecchi, anche lui è del parere che le ragazze e i suoi dirigenti non debbano farsi intimidire. Ma sulla Repubblica sulla vicenda si esercita il tuttologo, possiamo chiamarlo così, Roberto Saviano, che però soprattutto quando appunto si tratta di temi di criminalità è il primo a intervenire. E allora il titolo del pezzo: quelle ragazze del calcio che la mafia non fermerà. In realtà appunto vedremo, perché innanzitutto si tratta appunto di accertare veramente che tipo di da dove vengano queste minacce, e poi se come ha detto anche ieri il presidente di questa squadra di calcio femminile, non si tratta di resistere a tutti i costi quando i rischi sono appunto per esempio come quelli paventati in una delle lettere di minaccia, che venga addirittura ucciso il figlio piccolissimo del presidente di questa squadra di calcio. Il titolo principale però è dedicato, come quello di molti altri giornali e come del resto già era successo ieri, a queste polemiche su che cosa si deve fare per affrontare l'emergenza smog. Lo avete sentito anche nelle notizie sul traffico, continua a esserci nebbia nella maggior parte delle regioni, ma non si nelle regioni più del nord, quelle più colpite da questa emergenza smog, ma non c'è previsione di pioggia, quindi l'allarme resterà. E allora le varie misure dei comuni, in particolare quelle di Roma e Milano. Repubblica ospita un intervento di Umberto Veronesi, l'oncologo, che dice niente panico, i divieti servono a poco, sia misure preventive, quindi nulla di nuovo. E c'è invece un racconto forse un pochino più così immaginifico, più ricco di suggestioni, di Michele Serra, la rimozione del cielo. Ve ne leggo le prime righe, che poi è la parte finale, perché il racconto inizia sulla copertina di Repubblica e continua poi a pagina 27. La Milano Felix dell'ultimo paio d'anni, ordinata, sicura di sé, lustra di Expo e con il suo skyline nuovo fiammante, soccombe come ogni altra città alla mefitica nube di polveri che la avvolge. E poi appunto a pagina 27, i nuovi grattacieli in pieno giorno immergono le loro vette in un cielo opaco che le ingoia e le cancella. Osservati dal piano stradale, come assistere a un tuffo al contrario, un tuffo nel mare ignoto che ci sovrasta. Non è più lo smog nerastro e unto che massacrava i colletti delle camicie negli anni 60 e 70, quando il carbone delle caldaie e i fumi delle fabbriche spalmavano sulla città una patina buia e catramosa. È una moltitudine subdola di particole che l'assenza di vento aggrava aggrega in una specie di aerosol permanente che solo il vento e la pioggia possono lavare via. Con metafora non scientifica, ma credo efficace, potremmo dire che lo smog è passato da uno stadio primitivo, basico, da rivoluzione industriale, a una più raffinata formula postmoderna, meno visibile, se non dopo una lunga siccità, ma non per questo meno perniciosa. E l'ultima parte, in questo senso i cittadini sono dei veri e propri deprivati. Nelle società urbanizzate non si vede e non si sente più il cielo. Si è in ostaggio dell'allarmismo mediatico, quegli al lupo che al lupo non ti fanno credere più, si è più indifesi di fronte a una natura estranea e sconosciuta o misconosciuta, e conoscendola meno la si offende più facilmente. Anche la stampa apre sulla questione dello smog, con la notizia che il ministro dell'Ambiente Galletti ha convocato le regioni e le grandi città per evitare questi interventi in ordine sparso, ma la fotonotizia è dedicata a quello che sta succedendo in Iraq, con appunto il titolo "L'Iraq caccia l'ISIS da Ramadi". È stata appunto riconquistata questa città che era caduta sotto il califfato e gli islamisti sarebbero in fuga, e trovate poi gli approfondimenti alle pagine 8 e 9. Il Fatto Quotidiano: 25.000 sfumature di smog. Perché 25.000? Perché sarebbe questo il numero delle vittime da inquinamento in un anno. Non solo le polveri, il PM10, quindi le polveri sottili, ecco le PM2,5, vengono emesse da gasolio, carbone, centrali elettriche e ovviamente inceneritori. E da qui anche il Foglio ricorda la notizia data proprio ieri sul Foglio in prima pagina, che è stato dato il via libera a 9 nuovi inceneritori, nuovi di zecca nei prossimi anni. È una delle tante iniziative di Palazzo Chigi, molto contrastata o contrastabile, perché sicuramente gli inceneritori riversano nell'atmosfera molti inquinanti. Quindi il Fatto Quotidiano prosegue: il dossier Vias per il Ministro della Salute, quindi questo dossier da cui è tratta questa cifra di 25.000 morti ogni anno, l'aria avvelenata accorcia la vita di 10 mesi per ogni persona. Mentre la politica litiga sulle targhe alterne, i cittadini provano a cavarsela. E poi in realtà la fotonotizia dedica un collage di foto intitolato "Il volto del potere", un anno di scandali svelati dal Fatto Quotidiano, e questi scandali vanno da Banca Etruria, che è il più recente, alle vicende di Roma, con Roma Mafia Capitale, con l'inchiesta Mafia Capitale, le dimissioni del sindaco Ignazio Marino e tutti gli altri scandali appunto dell'anno, secondo il Fatto Quotidiano. L'Unità ha un'apertura, come potremmo chiamarla, ottimista, nel senso che ospita l'intera i-news di Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio, che ha annunciato quali sono secondo lui i successi del 2015, quali saranno gli impegni del governo per il 2016. Il titolo "Modern Family", perché il dato di fatto è che dopo il sì della Grecia siamo l'unico paese dell'Unione Europea senza diritti per le coppie gay, e da qui appunto anche il fatto che è stata rilanciata la proposta che nel 2016 finalmente dovrebbe essere approvata una legge che metta fine a questa mancanza di diritti, come scrive l'Unità, per le coppie gay. Il 2016, ha detto Renzi, appunto, sarà l'anno non solo di questo, ma dello ius soli, cioè quel diritto, letteralmente dal latino, il diritto che viene dal suolo, cioè il diritto alla cittadinanza se si è nati in un paese. Le cosiddette civil partnership, perché non chiamarli unioni civili non so, il servizio civile e il terzo settore. Vi dicevo di Giovanni Malagò, presidente del CONI, che si è espresso, ha espresso la sua solidarietà per queste ragazze di Locri, di questa squadra femminile di calcio a 5. La fotonotizia è proprio dello Sporting Club di Locri, che ritrae tutte le giocatrici e i tecnici. Questa è una squadra della Serie A femminile di calcio a 5, che tra l'altro è messa molto bene, lotta per lo scudetto, ma le minacce subite da gente del posto hanno convinto il presidente, a oggi questo sappiamo, a ritirare la squadra dal campionato. E Giovanni Malagò interviene sull'Unità con un articolo intitolato "Il loro diritto di fare sport". In prima pagina sull'Unità anche a proposito di 2016, tutto quello che è successo, anche un riepilogo di quello che ha fatto il presidente Obama. Diritti civili e disgelo con Cuba è stato l'anno di Obama in attesa di Hillary, mentre l'Europa arranca divisa e senza slancio. Naturalmente è molto contestabile questo, perché sicuramente il disgelo con Cuba, ma anche la fine delle sanzioni all'Iran sono dei successi dell'amministrazione Obama. Ci sono anche tanti lati oscuri dell'amministrazione Obama, però l'Unità sceglie di concentrarsi naturalmente sulle cose positive. Libero, così Renzi ha favorito le speculazioni su Etruria, quindi un titolo tutto dedicato allo scandalo delle banche, con un articolo di Franco Bechis e un altro del direttore Maurizio Belpietro. Stessa scelta per Il Giornale. Renzi deve pagare il conto, il crack del credito. L'Europa esenta le nuove banche dagli indennizzi ai clienti truffati, ma la Costituzione e il codice civile inchiodano il governo. Poteva salvarli e non l'ha fatto, ora li risarcisca. E in questo caso il commento di Francesco Forte. C'è poi anche un editoriale di Salvatore Tramontano che riprende il sondaggio pubblicato ieri proprio dal Giornale. C'è voglia di centrodestra ma unito, è l'unica alternativa al PD. Centrodestra unito vuol dire naturalmente una Forza Italia magari rinvigorita da un maggiore impegno di Silvio Berlusconi, che sia lei con Fratelli d'Italia e la Lega di Matteo Salvini. Ci fermiamo un attimo, ci ritroviamo subito dopo per gli articoli dalle pagine interne dei giornali. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo abbiamo visto le prime pagine dei giornali, ora ci spostiamo all'interno e torniamo sul Sole 24 Ore, perché vi dicevo continua l'iniziativa di questo manuale di educazione finanziaria dedicata, chiamato anche proprio il Salva Risparmio. È iniziata questa manuale di educazione finanziaria, è iniziato martedì 22 dicembre con un'analisi di quelli che vengono chiamati i profili di rischio, continuato mercoledì 23, la banca e gli intermediari, poi le obbligazioni giovedì 24 e oggi il focus è sulle azioni. Trovate tutto alle pagine 12, 13 e 14 del Sole 24 Ore, come districarsi tra i titoli di indici e listini. Nicola Borzi, il collega di Plus, il settimanale del sabato dedicato al risparmio, alla finanza e al risparmio, e che ci spiega appunto che le azioni sono gli strumenti finanziari più rischiosi dopo quelli a leva e che vanno maneggiati con cura. E l'analisi, mai fare da sé, si può puntare su ETF e fondi. Comunque trovate anche tanti altri approfondimenti di tanti altri colleghi e anche schede molto utili sulle azioni, sulle varie borse naturalmente, non soltanto quelle europee ma anche quelle, in primis quella americana, ma anche le altre, appunto come vi dicevo, dalla pagina 12 alla pagina 14 del Sole 24 Ore di oggi. E domani invece abbiamo detto di ETF, domani il focus sarà proprio sui fondi e gli ETF. Vi segnalo anche dalla pagina 16 del Sole 24 Ore un articolo di Lionello Mancini, che tantissimi ascoltatori di Radio 24 sicuramente ricordano come una delle voci degli anni scorsi di Radio 24. È stato vice direttore di Radio 24, grande esperto di cronaca giudiziaria e di economia, così del crimine, diciamo, economia sommersa. E qui torna, perché vale la pena ricordarlo, abbiamo visto sul Fatto come Mafia Capitale venga ricordata giustamente come uno degli scandali scoppiati nel 2015, imprese, legalità, silenzio capitale sul sistema delle buche. Vi leggo la prima e l'ultima parte. Cronache recenti offrono a Roma l'occasione per un addio amaro a questo 2015, inaugurato dalla grande fuga dei pizzardoni la notte di Capodanno. I pizzardoni, sapete, è il soprannome dei vigili della capitale. Ricorderete le assenze per presunte malattie nella notte di Capodanno dello scorso anno, vedremo cosa succederà quest'anno. Quindi la notte di Capodanno, dei pizzardoni, notte di Capodanno, è segnato dagli sviluppi di Mafia Capitale, dalle dimissioni del sindaco, dal rabbioso sconforto dei cittadini per i trasporti, il decoro e la pulizia urbani e la manutenzione stradale. L'occasione è data dall'arresto di una trentina di persone per aver manipolato gare locali a suon di mazzette. Un fatto minore per i media, ma paradigmatico per Roma e non solo. Ed ecco l'ultima parte. Se l'Italia per bene non decide di puntare il dito contro questo degrado morale, prima ancora che economico, il prossimo anno e quelli ancora dopo vedranno le stesse strade ammalorate e l'identico potere dei capicosca, perché nessuna legge potrà statuire ciò che solo la coscienza dei singoli può decidere: adeguarsi al sistema, chiudere gli occhi oppure denunciare. Vi dicevo invece poi un'ultima segnalazione dal Sole 24 Ore, la guida pratica, vi dicevo, alla manovra, alla legge di stabilità, con il focus oggi sugli immobili. Sapete che la grande novità è per il 2016 è questa TASI azzerata sulle prime case e sui fabbricati assimilati. Qui ci sono tutti i dettagli, li trovate da pagina 26 in poi del Sole 24 Ore di oggi. Dicevamo, lo scandalo di Banca Etruria, che oggi è l'apertura del giornale di Libero, però anche Fiorenza Sarzanini, come ieri, prosegue sul Corriere la sua inchiesta. Fiorenza Sarzanini, cronista di giudiziaria di punta del Corriere della Sera, che sta esaminando tantissimi documenti per capire effettivamente qual è la questione, quali sono le responsabilità. Naturalmente sapete che la questione è anche strettamente legata al governo di Renzi, perché il vicepresidente di Banca Etruria è il padre del ministro per le riforme Boschi, che lo ha difeso in Parlamento dicendo che è una persona per bene, raccontandone la storia, ma dicendo che gli vuole molto bene, ma purtroppo, soprattutto leggendo articoli come quelli di Fiorenza Sarzanini, sono ben altri gli argomenti che andranno usati per difendere l'operato del vicepresidente di una banca che, come scrive Fiorenza Sarzanini, ha per esempio manipolato i verbali per nascondere le maxi perdite, dati falsi e conflitti di interesse non dichiarati, così consiglieri aggiustavano le decisioni. Vi segnalo dalle pagine interne del Corriere della Sera anche un interessantissimo approfondimento di Fabrizio Dragosei che riguarda una questione geopolitica a metà tra le questioni diciamo puramente strategiche, anche di controllo del territorio, e energetiche. La morsa russa sul Grande Nord. Dall'Artico all'Europa, Mosca si rischiera per controllare risorse e aree strategiche, quindi appunto risorse soprattutto energetiche, ma anche aree strategiche per tutti gli interessi geopolitici che ha. E ricordiamo tutti per esempio la questione dell'Ucraina, uno dei grandi temi del 2015. Vi dicevo che molti giornali danno conto di questa riconquista di Ramadi da parte delle truppe irachene, Ramadi che era finita sotto il controllo dello Stato Islamico. E vi segnalo su Repubblica un articolo di Jason Burke, che è uno dei massimi esperti di terrorismo, corrispondente dell'Observer e del Guardian. L'Observer è l'edizione diciamo settimanale del Guardian, potremmo dire così, comunque sono legati i due giornali. Da anni segue l'evoluzione del jihadismo in Asia, Europa e Medio Oriente ed è autore del bestseller Al-Qaeda, la vera storia dell'Islam radicale. Questo articolo è stato pubblicato appunto in Inghilterra, tradotto da Repubblica, che è un articolo di Syndication con il Guardian. Si intitola "Meno terra, meno soldi, così una città che cade può far tremare lo Stato Islamico". Le previsioni più ottimistiche possono richiedere anni per divenire realtà. Oggi non si può cantare vittoria, quindi che appunto questa città sia stata riconquistata è vero, però Jason Burke ci avverte che il lavoro capillare dello Stato Islamico, un po' successore di Al-Qaeda come grande protagonista del terrorismo, del jihadismo mondiale, è stato appunto molto efficace, che quindi per sconfiggerlo e per cantare vittoria ci vuole ben altro che la riconquista di una città. Poi vi segnalo un'intervista curiosa a Sandro Bondi, che sapete è stato in Forza Italia per tanti anni e ora ha lasciato definitivamente il partito di Silvio Berlusconi. Il titolo dell'intervista di Dario Crestodina è "Io cortigiano pentito, Berlusconi è uguale al conte Ugolino". Vi leggo alcune domande e risposte. Dario Crestodina: cominciamo quindi da Berlusconi. Berlusconi è stato brillante all'opposizione, ma deludente se non fallimentare nell'arte di governare e nel portare a compimento quegli accordi politici che avrebbero cambiato in meglio il nostro paese. Non ha saputo esercitare, quando sarebbe stata opportuna, la sua tendenza al compromesso. Chiede Dario Crestodina: mi aspettavo un giudizio un po' più letterario, perché sapete che Sandro Bondi scrive anche poesie. Uno ce l'ho: Berlusconi potrebbe essere paragonato al conte Ugolino che nella Divina Commedia divora il cranio dei suoi figli. E questo riferimento culturale è in fondo lusinghiero, perché lo sguardo di Ugolino verso i figli è di disperazione, mentre quello di Berlusconi è quasi intinto di sadismo. In realtà sono giunta alla conclusione che non vi è alcuna grandezza tragica in lui. E poi ancora chiede alla fine dell'intervista Dario Crestodina: se Dante dovesse mettere Berlusconi nell'infernale lago ghiacciato di Cocito con Bruto, Cassio e Giuda, non dovrebbe riservare un posto anche per lei tra chi ha tradito i benefattori? Lei è stato servo a Edo e mamelucco, pronto a dormire sullo zerbino del padrone. E Bondi risponde con con grandissima sincerità, sono stato anche questo. Quando forse un giorno verranno pubblicate le mie lettere indirizzate nel corso di 20 anni a Berlusconi, frutto del mio lavoro di consigliere politico, si comprenderà qual è stata davvero la mia figura. Sì, potrei essere accostato a Giuda, ma chi ha letto il recente bellissimo libro di Amos Oz, aggiungo io, che si intitola proprio Giuda, è un romanzo in realtà, che parla però soprattutto, affronta il tema del tradimento, sa che Giuda è stato forse quello che ha preso più sul serio Gesù di Nazareth. Ultima domanda. La vedremo prossimamente con Renzi, un'altra croce da portare. Io con Renzi e nel PD, no grazie, voglio essere dimenticato. Forse quindi questa sarà l'ultima intervista che leggeremo a Bondi, dubito, ma insomma vedremo. Sempre da Repubblica, un'intera pagina dedicata a un tema che in realtà è già stato affrontato nei mesi scorsi, però ancora c'è l'ennesimo studio che dice addio alla dieta mediterranea, così la tradisce un italiano su due. C'è uno studio che dimostra che a tavola ora si mangia più carne e meno frutta, che tra i giovani aumenta il rischio obesità. Vi segnalo poi dalle pagine interne della Stampa un'intervista al ministro dell'Ambiente Galletti, che abbiamo visto sta cercando di fare appello al buon senso, potremmo dire, di tutti i sindaci, dei presidenti di regione per avere delle strategie comuni antismog. Il titolo di questa intervista di Giacomo Galeazzi: il governo darà più fondi, ma i cittadini devono diventare responsabili. Quindi un po' anche il tema che tocca Umberto Veronesi in quell'intervento che ho citato, ospitato dalla Repubblica. Nessuna imposizione dall'alto, bisogna svecchiare il parco dei mezzi pubblici, sprecare meno energia. L'emergenza può durare molto, governo ed enti devono dare una risposta coordinata. Un'altra intervista a un altro ministro, la trovate invece sul Messaggero, in questo caso è al ministro dei beni culturali Dario Franceschini, tocca molti temi. Anche quello dei, forse lo ricorderete, nei mesi scorsi che aveva suscitato molte polemiche sulle nomine dei direttori dei musei, che in alcuni casi erano stranieri, e come peraltro succede all'estero, che a volte vengono nominati appunto degli stranieri, ma qui era stata una cosa che aveva, ripeto, suscitato molte polemiche. E tra l'altro Dario Franceschini anticipa che verranno fatti altri concorsi per musei e super direttori aperti anche a candidati stranieri, che quindi potrebbero arrivare altre nomine. Sulla questione per esempio del supporto al cinema dice: non soltanto cinepanettoni, lavoriamo per dare incentivi più forti per esempio a chi distribuisce i film in estate. Sapete che questa è una delle tante anomalie italiane: in Italia in estate molte sale cinematografiche chiudono, ma soprattutto non vengono distribuiti nuovi film, mentre per esempio negli Stati Uniti l'estate è, insieme al Natale, il momento in cui si lanciano quelli che si spera siano dei blockbuster, cioè dei film di grande successo. Poi sul famoso art bonus, quel fondo che viene dato ai giovani da spendere in arte, dice: vorrei le grandi aziende italiane come sponsor delle 20 maggiori istituzioni culturali. E su, per quanto riguarda l'operato in generale del governo sulla cultura, dice: sono tante le riforme fatte, l'Italia non era abituata a un governo che decide, anche scontentando qualcuno, ma decide. E sempre sul Messaggero un'altra riforma, anche qui annunciata tante volte, che stiamo tutti aspettando, perché quando leggiamo nel dettaglio soprattutto gli sprechi delle partecipate vengono brividi lungo la schiena, o sono insomma notizie, come direbbe Alessandro Milan, da mani sul volante. Ecco, allora in primo piano sul Messaggero, pagina 13, un approfondimento sulla la riforma che dovrebbe finalmente partire. Un terzo delle società partecipate dagli enti pubblici dovrebbe andare verso la cessione. Nel decreto che il governo approverà a gennaio, così pare, i criteri per questa dismissione: via le società inutili, troppo piccole o in perdita per 4 anni su 5. Alcune delle altre misure che riguardano pubblica amministrazione riguardano i manager sanitari. Uno specifico provvedimento limiterà l'arbitrarietà della regione nelle scelte dei direttori generali. Sapete che purtroppo oggi sono spessissimo nomine politiche, cioè manager sanitari che dovrebbero sapere soprattutto di sanità, forse anche abili nell'arte del compromesso, perché sicuramente devono scendere a compromessi tra tanti attori, ma dovrebbero sapere appunto di sanità, e invece, ripeto, sono spesso di nomina politica. Poi anche una razionalizzazione delle forze di polizia, che quindi prevede l'addio alla forestale, così almeno appunto viene annunciato. E poi ancora provvedimenti per snellire la burocrazia, e vedremo appunto questo decreto annunciato per gennaio. Torniamo sulle pagine del Fatto Quotidiano. che affronta la questione dell'ILVA, la grande acciaieria di Taranto, che è al centro di un piano di ristrutturazione che non parte. E secondo questo titolo molto polemico del Fatto Quotidiano, la Mittal, il colosso indiano, pretende la licenza di uccidere. L'azienda indiana acquista solo con l'impunità totale. Continuerebbe col carbone, mentre il sindaco Emiliano è presidente. Presidente della Puglia dice: riconvertiamo tutto a gas. Questa è l'idea, ma appunto l'unico compratore in questo momento è la Mittal, che ha posto delle condizioni molto precise. E poi una buona notizia per noi amanti di libri, per tutti forse. Negli Stati Uniti una recente indagine svela che aumenta la vendita dei testi cartacei. È passata da 559 milioni di copie del 2014 a 571 di quest'anno. Non solo ebook, la riscossa del libro di carta. E chi come me insomma segue questi temi da un po' di anni, io ricordo sempre un primo convegno nel 1999 in cui si annunciava la morte del libro di carta. Ecco, adesso scopriamo che non è così certa la morte del libro di carta, anche se sicuramente gli ebook hanno tanti vantaggi e probabilmente continueranno a crescere, anche la loro diffusione continuerà a crescere. Un'ultima segnalazione prima della pausa sul traffico: un gustoso articolo di Massimiliano Parente sul Giornale dedicato a Fabio Fazio, definito il milionario di sinistra più furbetto di Santoro. È così democratico che invita a trasmissione solo gli amici ed è un mago nel rendere inoffensivi i nemici. Quindi onore alle armi al, tra virgolette, nemico Fabio Fazio, e poi appunto tutta un'analisi anche di quello che degli ascoltatori che fa, ma anche dei guadagni che ha il conduttore di Che Tempo Che Fa, appunto. Ci lasciamo un attimo, come dicevo, per la pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, insieme per l'ultima parte di questa rassegna con altri approfondimenti dalle pagine interne dei giornali. Da Libero vi segnalo un'intervista a Daniela Santanchè. Il titolo è: Boschi, stai serena, Matteo tradirà anche te. Tradirà, secondo l'esponente di Forza Italia, soprattutto sulla questione di Banca Etruria. Abbiamo ricordato prima perché il ministro Boschi, il ministro per le riforme, è coinvolto, perché il padre è stato vicepresidente di Banca Etruria. Insomma, è una pagina intera, quindi Santanchè si esercita su tutto, e per esempio sulla questione della leadership di Forza Italia e del centrodestra, la domanda di Pietro Senaldi: Salvini è più scatenato nell'attaccare il governo su Banca Etruria, voi neppure avete votato la sfiducia alla Boschi. Ma voteremo la sfiducia a tutto il governo, risponde Santanchè. È sterile insistere sulla distanza tra Lega e Forza Italia. Il centrodestra è uno, quello che si è visto a Bologna, comprende anche la Meloni, e unito può tornare al governo puntando su taglio delle tasse, taglio degli sprechi, sicurezza e difesa dei valori occidentali dall'islamizzazione e dalla bomba immigrazione. Gli ultimi sondaggi uniti ci danno sopra il PD. E chiede ancora l'intervistatore: se l'erede di Berlusconi fosse Della Valle, chiunque si aggiunge è il benvenuto. Spero che i capitani coraggiosi si facciano avanti in questi tempi di Boy Scout, che non hanno mai lavorato e tantomeno fatto impresa. Ma si decida, altrimenti rischia di diventare un tormentone. E poi un'altra intervista, anche qui una pagina intera, a Ombretta Colli, ricorderete, insomma, esponente di Forza Italia, ora ha finito la sua esperienza politica. Il titolo, che poi prende spunto da una domanda e risposta che vi leggerò: io casta prendo letteralmente solo 3.470 euro di vitalizio. E la domanda appunto era: fu notato che lasciò solo quando è scattata la sua pensione di senatrice. Risposta: lei pensa che io sia arrivata a questo punto della mia vita per scandirla sulla pensione di senatore? Le faccio vedere quant'è. Si alza e fruga nei cassetti per mostrarmi, scrive Giancarlo Perna, busta alla mano, che si tratta di un'inezia. Non la trova, si risiede e riparlo io. Lo dica a voce, ci credo senz'altro. Risposta: 3.470 euro mensili. Lordi? No, netti. E scrive, chiede Gianfranco Perna: le pare una piccola pensione? Fa il paio con la sua infelice uscita da Gad Lerner, quando disse al pubblico: alzi la mano chi non ha mai fatto una vacanza in barca. Fu sommersa di ironie. E lei risponde: si figuri, era la solita platea radical chic di Lerner. Lì in barca c'erano andati tutti, a cominciare da lui con De Benedetti. E su questo sicuramente Ombretta Colli ha ragione. Sempre ancora un'altra intervista sul numero di oggi di Libero, ci sono queste belle interviste, lunghe e belle, perché in fondo è soprattutto forse in questi giorni in cui abbiamo un pochino più di tempo, è bello appunto non un botta e risposta da cui si capisce poco, ma un'intervista di una pagina che ci rivela qualcosa sull'intervistato, forse anche sull'intervistatore. E qui l'intervista di Simona Bertuzzi è a Mirka Negrini, che è una si occupa nella tenuta alle falde del Monte Adoni in Emilia di scimpanzé. Curo gli scimpanzé come figli, ma che fatica con il biberon. Vive per salvare gli animali selvatici e esotici tra leoni e lupi, ma il suo cuore è per i primati. Dipingono e giocano con i Lego. E tra l'altro, come su Repubblica poi invece c'è un'intervista a un'altra grande primatologa, vedremo appunto come questo tema possa essere affrontato, e affrontato anche che i grandi primatologi non sono soltanto gli stranieri, ma appunto abbiamo anche questa Mirka Negrini, che, di cui io non avevo mai sentito parlare, ma che sicuramente fa il suo lavoro, è molto impegnata in questo lavoro proprio qui in Italia. Dalle pagine interne dell'Unità vi segnalo anche un tema di quelli di cronaca, lo spunto di cronaca ce l'hanno offerto nel 2015 le morti sotto il caporalato in estate, soprattutto nei campi, tra gli agricoltori. È un tema che sul momento ha suscitato molte discussioni e poi si è perso, come spesso accade, e in questo caso Mauro Rosati, che è un esperto di politiche agricole, racconta appunto come il caporalato sia una guerra che l'Italia non può permettersi di perdere. Le morti dell'estate hanno riacceso i riflettori su una piaga antica legata anche ai flussi migratori, dalla risoluzione approvata in Parlamento all'impegno dei titolari di agricoltura, giustizia e lavoro. E vedremo però se magari nei prossimi mesi, soprattutto in estate, quando il tema torna di attualità e come dice anche questo articolo, riguarda anche gli immigrati, vedremo se appunto la situazione è davvero migliorata. Dalle pagine interne del Fatto Quotidiano vi segnalo una pagina su un tema, quella del suicidio assistito, di cui un altro tema in cui in Italia c'è una vacatio legis, tant'è che molte persone per esempio si recano in Svizzera per appunto chi vuole accedere a questa pratica del suicidio assistito. I radicali chiedono una legge e nel frattempo creano una struttura di supporto per chi sopraffatto dalla malattia decide di farla finita all'estero. E in questa pagina ci sono i messaggi di alcuni malati. Si può essere sicuramente anche per ragioni religiose o anche laicamente etiche contrari alla pratica dell'eutanasia, però è giusto probabilmente parlarne, avere una legge, come succede nella maggior parte dei paesi. Passiamo ancora ad altri temi, forse un pochino più generali. Siamo verso la fine dell'anno, nei prossimi giorni sicuramente molti giornali si eserciteranno appunto sui bilanci del 2016. Oggi c'è già il Corriere con un articolo di due pagine, pagina 28 e 29, di Elena Tevano, un anno di buone notizie in tutto il mondo. Abbiamo parlato appunto tanto anche di cattive notizie, qui partendo da numeri. Elena Tevano riassume un po', ci dà degli spunti di ottimismo. Per esempio, 200 milioni i poveri in meno rispetto al 2012. La Banca Mondiale ha calcolato che le persone che vivono con meno di $2 al giorno sono diminuite del 13% e formano oggi meno del 10% della popolazione mondiale. Oppure, 1700 chilometri la distanza dalla prima trasmissione dati quantistica con un satellite al mondo. L'hanno realizzata ricercatori italiani, impacchettando le informazioni in particelle di luce e inviandole nello spazio. Quindi una buona notizia sul fronte del progresso scientifico, che vede protagonisti tra l'altro degli italiani. A proposito del 2016, sul Corriere della Sera, pagina 34, una pagina intera di Alberto Melloni su Papa Francesco e le sue svolte del 2016. L'insegnamento di Bergoglio separa chi pensa che il Vangelo possa servire a fare politica e chi crede che alla politica serva una Chiesa impregnata del solo Vangelo. Il Pontefice si è dato come compito di traghettare tutti da questa parte. Per lui la medicina della misericordia, a cui sapete è intitolato il Giubileo del 2015-2016, è il balzo innanzi, profetizzato dal Concilio, e la bussola per trovare il Cristo povero nei poveri. Si tratta anche di raggiungere, e lo si vedrà in sinagoga e in Chiapas nel prossimo gennaio, prossimi viaggi del Papa appunto, la prossimità al dolore effettivo del mondo. E poi vi dicevo, da Repubblica, la grande primatologa Jane Goodall, qui c'è un'intervista fatta da Giacinto Antos, in questo caso era pubblicata da El País, anche in questo caso quindi tradotta da Repubblica, che cosa ci insegnano i nostri amici scimpanzé. Sapete che Jane Goodall ha vissuto per tantissimi anni, oggi tra l'altro ne ha 81, in Tanzania, ora però è tornata in Inghilterra, e però continua a scrivere, continua a fare ricerca e continua a diffondere la cultura dell'ambientalismo, del rispetto della natura e in particolare appunto dei primati e degli scimpanzé, di cui è probabilmente la massima esperta. Dal macro, una delle ultime segnalazioni che riesco a farvi, il supplemento del Messaggero dedicato alla cultura, un ricordo di Kipling nel 150° anniversario della nascita. Il Regno Unito riscopre e celebra lo scrittore e poeta nato a Bombay. Alcuni volumi ne ripercorrono le opere e la vita, dal saggio biografico scritto da Andrew Lycett ad un libro che riunisce una scelta di versi, coraggio e disciplina, i cardini del creatore di Kim e del famosissimo Libro della giungla, che lo portarono al Nobel per la letteratura. Vi segnalo anche il supplemento culturale del giornale Controcorrente. Qui c'è un'inchiesta molto interessante su un fenomeno che negli Stati Uniti è molto diffuso ma sta crescendo anche in Italia, che è quello del homeschooling, cioè di non mandare i figli a scuola ma di organizzare delle lezioni a casa. In Italia gli studenti fai da te sono un migliaio, quindi pochi, ma il fenomeno è in crescita, colpa di insegnanti scadenti, bullismo e omologazione culturale. Questa è la conclusione appunto della giornalista del giornale. E poi vi segnalo, a proposito di cultura, vi ricordo che il Sole 24 Ore, l'iniziativa del Sole 24 Ore, all'indirizzo archivio domenica www.ilsole24ore.com, 32 anni di supplemento domenicale online. E poi da ieri, dalla lettura del Corriere della Sera, che è in edicola tutta la settimana, un articolo di Federico Fubini, Le finestre dell'illuminazione, la fase creativa della vita, ci dicono alcuni libri recenti, si spinge in avanti. Ecco perché, dicono due economisti, si raggiunge l'apice anche da anziani. Con questo augurio, insomma, di continuare a studiare, a tenere la mente viva per il più lungo tempo possibile, vi auguro ancora un buon lunedì. Grazie a Peter Bescapè in regia e noi ci sentiamo domani.